ngido e pendidok kolau para sibukuna dumbor hasia jamu tadi alung mabukuna di dayung mase peda bemanda potong tamlena oh jamina oh oh oh jamila oh jamila dabitang Bintang di